Sì, ce l'ho interrato, ce l'ho in basso, ce l'ho. E prima erano 6 metri di altezza oltre l'antenna. Cappa. Beh, ti arrivo anche se ce l'hai bassa. E certo mi arrivi, che succede? E piano piano già si aumenta. E ecco, sono anche la radio che è fredda. Cappa, ma già va bene, dai. Deve stare uno e uno deve stare, perché se sta di più no, già non va bene. No, di più no. Infatti sono... Caspita, proprio... Ah, adesso vedi che si muove là. Niente, zero proprio. Zero. Ah, già va bene, dai. Ecco. E così era prima. Poi io l'ultimo mi ha giusto già, è una brutta cosa. È una brutta cosa, sì, perché quando ti mette lucido poi diventa un casino, diventa. E infatti, e vabbè, ce la proviamo. Adesso più avanti, come fa le giornate belle, la smonto del tutto e la pulisco bene con la cartametrata da 1000. La pulisco e poi ce la rimetto di nuovo su. Cappa, molti anni ce l'hai? Ma spesso 4-5 anni. Mantova. Sì, la metto da turbo. C'è un micidiale con le licca. Sì, no, le fanno bene, sono belle antenne. Infatti ho preso la Mantova perché era l'unica che... L'unica che conoscevo come antenna, l'ho sempre avuto, ho avuto la Mantova 1, ho avuto la Mantova 5, e adesso quelle lì non ci sono più e ho preso questa qua, però è una bella antenna, proprio, guarda, non è che non se ne scende dalla... La Mantova 1 è meglio perché era più sorda, era. Beh, ti arrivo a sorso. Sì, un segnale di 7, la radio 5. Sì, già va bene. Sì, io la Puglia, va bene. Va benissimo. Stamattina non c'è mai nessuno qua. Sì, già entrano qualche volta. Ma fai cambiare il baracchino, un minuto. Vai, fai tu. Ora. Attenzione Franco, mi senti? Cappa, questo è aumentato anche il segnale. 6-8, la radio bella amplificata. Cappa, sono con l'87 con l'MB più 5. Sì, più forte questa qua è come segnale. È già un grido, già. Va bene. È bella radio. Cappa, questa è l'87 con l'MB più 5. Già va bene. Quello là era 140 era. Andavano bene tutte e due però, dai. Sì, ma 140 va benissimo qua. E io sto usando 180 della chiesa, sto usando stesso. A voglia va bene, cappa. Qua già. Vabbè, qua c'ho più watt, La verità, vedi? Faccio così, è un conto. È molto. Se faccio così, va molto di più. Vai, da 5 a 8. Vai, tu. Aumenta un bel. È già un grido, via. Ma c'ho presente di quella radio, lo sai? Quale? Dell'87? Sì, via. E rimane tipo Superstar, una cosa del genere. Ma quello dei nuovi? No, questo è vecchio. Questo è il modello vecchio, Ma voglio una gannonata, però. No, ecco, va bene. Quelli vecchi sono i migliori, sono. Io, a me, l'altro giorno, anche ieri, stavo uscendo con il presidente Vinco, stavo uscendo, e usciva bene con l'M25. Poi gli ho messo anche Saverta, o Saverta esce una canonata, e più è 48, eccolo tutti bene, eccolo quelli lì. Già non credo che ci niveggia, non credo. Pure questo è una cannonata, questo cavolo, questo spinger. Sì, sta spingendo, già spinge quello lì, e va bene. Cappa, voi usate 347 a voglia, io utilizzo la Ringo, il Ringo Lem. La Ringo, sì, la conosco quella lì, la Lem quella. Cappa, utilizzo quella come antenna. Adesso proviamo a fare una cosa, una storia. Provo a spegnere questo. E aumentare tutti i watt dell'apparecchio, fino a 27 watt. Com'è? Ma sei modulati a 7, sei modulati a 7 così. Non era matte si gozano. Allora, facciamo così. Visto che tu sei più lontano, le prove si fanno in lontananza. Hola. Hola. 1, 2, 3, prova radio. Hola. Ecco qua. Questo è a 8, vai, modulati a 8, sì, così. Abbassalo, spegnilo quello lì, mi ha detto, e metti per qualche fissa a vedere, a quanto arrivi. Aspetta, così è spento. Tante fissa, così è spento, vabbè, pochi watt ci sono, Sì. E così è acceso. Ha portato l'usa senza attaccare, sui 4. Vabbè, con pochi watt diciamo, no? Stavo utilizzando cosa ne so io. Sicché io lo uso con poca potenza. Lo uso, dovrei attaccare il rosmetro per sapere veramente com'è, quanto sto uscendo, capito? Ecco, ah, non le hai collegati il rodio? No, non l'ho collegato qua. Ma conviene sempre tenerne uno attaccato. Io ce l'ho sempre collegato uno. Non si sa mai, io lì. Se no ieri non me ne sarei neanche accorto che sarei stato nello stazionario. No, io già nell'altro ce l'ho sempre attaccato, qua già. Come la fottinuta, capito? Vabbè, Antonio, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Ah, mi ascoltate, sì. Ti dare una caimata. Ciao, fra. Ciao, buongiorno, dai. Sono in radio. Perché sto uscendo con l'antenna in gomma. Sì. E che c'è un baracchino già a fondo scala, sì. Elia, c'è l'amico, avanti. Franco, da solo. Ciao Franco, buongiorno, 9-10 il tuo rapporto di segnale qua da me. Cappa, il tuo è 9 Radio 5, Super 5. La radio va bene, Franco, lì? Sì, è la buia, bella forte amplificata. Cappa, sto finendo di chiuderlo questo microfono. E cosa è? Allora, questo è un MB+4 modificato da me. È buono. È un po' forte come radio, con il microfono. Magari, vabbè, già c'hai la tonalità per abbassarla. Vabbè, adesso l'ho abbassato, dai, così meglio va. Sì, adesso sì. Se no spacca le orecchie. E ce l'ho a 2, fra. Bello brutto, è una bella modulazione. Gappa, vai Antu. 9.40 sì comunque. Chi io? Cappa. Già lo so. Cappa. Stai fischiando per la bambola, c'è l'altro acceso c'hai. Ehi, c'avevo l'altro acceso, forse per quello che stavo fischiando. Cappa, forte e chiaro qua. Ehi, fra, devo fare una prova, devo provare un'altra radio, che gli ho pulito la ventola perché c'aveva la ventola un po' costruita, e adesso l'ho sistemato, e mi dai conferma come ti arrivo con l'altra radio. Bianco, per me, ci sentiamo dopo, devo fare una cosa, ok? Ehi, tu, va bene, dai, fra. Aspetta che la provo. Fra, ci sei? Sì, ci sono. Allora, questa è un'altra radio, il K, come ti sto arrivando qui? Guarda, sì, questo è il segnale 9, modulati, la radio è bellissima, cos'è l'MC60? K, sto pilotando 680 con MC60. Guarda, bella pulita proprio, bella radio. Come lo sto usando io lo stesso, io sto usando 680 con MC60. Io l'ho aperto perché gli ho voluto pulire la ventola, capito? Siccome lo sai che praticamente le ventole ci assorbono tutto, polvere, lanetta, di tutto e di più. L'ho tutto pulito, sistemato e sono chiuso. Sì. No, già aiuta bene. Io vorrei fare anche quel lavoro lì, però sto in cerca di mandarlo fuori perché c'ho il VFO che salta, capito? Mi salta. E così glielo faccio mettere il ruolo. Che cosa? Il VFO del 180. Ah, vabbè, quella è una cazzata. Me lo faccio revisionare anche. Sto in cerca di mandarlo fuori. Adesso vediamo, va. Ah, questa qua me le faccio io le manutenzioni. Questo ogni tanto ripulisco la ventola, non spesso, ma almeno ogni 6 mesi, dai. Vogliono farci pulire quel lavoro lì. Però la mia già non si sente anche quando si collega. Non si sente. Perché voglio basso, ma invisibile. Dai. No, ma va bene, c'hai una bella radio anche tu, certo. Queste radio qua vogliono bilanciare solo con l'MC60. Se li metti un altro microfono vale un niente. No. L'MC60 ci vuole, c'è poco da fare. Il suo microfono non ce n'è, un bel gente dice metto un altro tipo di microfono. MC60 è così. Addirittura qua gli ho adattato anche l'MB più 4 io. Gli ho fatto il cavo, tutto quanto. Ma non esce bene come esce l'MC60. Sì, non è che esce male, però ho sentito con l'MC60 con l'MB più 4, ma non mi piace. No, l'MC60 è un microfono professionale, è tutto un altro pianeta, capito? Infatti, a parte che tu fai la modulazione come uno parla di persona. E si conferma. Adesso vabbè, c'ho il processore inserito io. Se lo tolgo, guarda, così è senza processore. Così è quel processore. Sì, c'è basta la modulazione, basta. Se no la modulazione è sempre quella. Niki che ce l'ho sotto la io, capito? E i watt e 10 watt modulati a picchiata 40-50. Così ce l'ho io, sotto la C, no? Ce l'ho io. Niki che. Sotto la C, come io sotto la I, vabbè, questo. E i watt quanto li stai dando, Fra? I watt adesso sto uscendo 20 watt a porta tenuta e modulati 40. E come il mio, dai. Adesso sta cominciando a saldare, sta cominciando. Dovrebbe salire fino a 40, poi modulati qui, però adesso non mi ricordo a quanto l'ho messo quando ho da caldo. Io c'ho il commutatore e praticamente lo commuto uno o l'altro, capito? In modo che le posso utilizzare tutte e due in automatico. Sì, già va bene. Io ho un commutatore, però non devo prendere uno nuovo, perché questo qua mi sa che sta cominciando a rompere le scatole. Questa è un'altra radio, Franco Lì. Questa adesso, quant'è? 9 da te? No, con questa si è abbassata 8. Adesso ti do i watt di questa, eh. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo metti la portante muta. La portante muta 6, 8. Parlati a picchi a 9, così è? Sì. Allora, questo è un altro tipo di radio, questa eroga 50 watt, adesso sta uscendo 50 modulati, adesso abbasso e lo faccio uscire con, guarda, adesso c'è una sala all'impicco, 20 watt modulati, così. Ci sento che è un'altra radio, è diversa dalla... questo è un il Magnum, capito? Lo conosci, sì? Sì, sì, sì, sì, sì. Va bene la radio. Questo è il Magnum, l'S9 della Magnum. Adesso sto pilotando con... L'ho abbassato un po' di watt. Però vedi, c'è un aumento. Qua. Guarda. Qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho aumentato del tutto, sempre 8, 2,9. Infatti, vabbè, l'altro ne spinge di più. Adesso provo a fare una cosa, Aspetta, Vediamo un po'. Così come? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, così sì. Hai superato leggermente un pelino il 9, hai superato. Però la radio è un pochettino leggermente scioccata. Va a strappare. Adesso sto pilotando forse troppo in alto. Aspetta un attimo, vediamo un po'. Così dovrebbe... Così, vediamo un po'. Così dovrebbe picchiare forte. Va bene, la cordatura è zero, stazionaria non ce ne sono, per me. Di lusso, alla grande. Ecco, no, già... Va bene, va bene. Sì, a me ieri mi sono salita, la stazionaria è a 5, mi sono salita. Ho guardato, ho mollato il coso della molla, dell'antenna, era tutto oscillato sotto. E quindi non faceva contatto e faceva quel problema lì. Certo. Aspetta un attimo, Franco, lì. Attenzione, 10. Franco, ci sei ancora? Sì, sì. Eccomi qua. Qua a vedere adesso come arrivo al sorcio. Sempre una tesi, sì. Non ha cambiato nulla. No, 6, 7, ne durate a 8. Ah, è capa. Vediamo un po'. Ora, guarda a vedere adesso. No, sempre lo stesso, non ha cambiato niente. C'è più potenza. Lo ritorniamo così, se no è troppo. Vieni che vuoi entrare. Avanti, che vuole entrare? Vicino a te anche. Ma cosa? Più o meno è lo stesso segnale tuo, appena più alto. Cappa, sagaretto. Attenzione, chi vuole entrare, avanti? No, la persona giave. Sì, sicuramente. Niente. Oh, aroma a cazzo, arrivo, me. Aroma a kinkiwi. Arrivano tutti qua. Arrivano. C'è una posizione buona. Capo, ma è aumentato, vai. Capo, c'è più forte il segnale adesso. Sta scaldando la radio. Adesso non mi ricordo quanto l'avevo tarata. Andiamo, andiamo. Che? Buongiorno, sicuramente Luca ti arriva più forte di me. Insomma. Vabbè, anche una diversa zona, più favorevole a sorcio di me. Buongiorno Franco, buongiorno Antonio. Vabbè, diciamo che sono più vicino verso il sorcio, Antonio, capito. Gaffa. Franco arriva a 9, quasi 9.20 qua, No, qua no. Ciao, me l'ha ascoltato. Non 9.20, perché dove sei? Io sono qua, Lima Delta. Vabbè, lì è tutto positivo. E avanti. Positivo Gavarocci. Luca, conosciuto è quello che ti ha chiamato? No, avanti, chi è? Lo sento basso. No, non è ragionente. Avanti che ha chiamato Luca. Lo sento basso, chi è Anto? non lo so, l'ho sentito in un passaggio, non lo so. Chi è l'amico da Sorso? Chi è? Ah, Vannino è. Ciao Vanni, mi ascolti? Sì. Sì, sì, sì. Segnale, vabbè, sì, uno. Uno, uno e mezzo. Ciao, segnale che vai e viene, là. Questo è un movimento. Avanti, bomboli. Cappa, no, qua l'ho sentito per un po', poi non l'ho sentito più. Qua non arriva. Ma sento basso, basso, basso, pio pio. Attento Vannino da Sorso, mi senti a me? Dai, un attimino, altro vado a via del su, arrivo subito. Cosa ha detto? Ha detto che ti ascolta, ma tu non lo senti? No, basso, basso, basso, ma vabbè, in macchina è. Ehi, hai macchina è. Praticamente in zona proprio critica per me. Magari io me le scappo a sentire, magari perché c'ho l'antenna, cioè sono in una posizione migliore, poi c'ho qualche watt in più, dai. No, lo sai cosa. Vabbè, io prendo il mare, bene, arrivi a Sassi. Capo, provo a provare nell'altro, magari c'è più ricezione, adesso lo sento. In un paio di passaggi l'ho sentito, attento Vannino, ascolti bombolo, cappa! Ti penso dai Vannino? Ah no, vabbè dai, è in piazza adesso, non ti sente Antu. Non mi sente? No, adesso no, è in piazza, a sorso. Sembra... Capa, no, io non lo so, eppure dove ci arrivi il segnale, oppure è negativo, nei palazzi no, non ce la fa sentire. Probabile, prova in banda a vedere, o in FM a vedere. Proviamo. Vai in FM, Vanni. Hola. Attenzione Vannino, mi senti? Non hai sentito tu? Oh, non arriva proprio, evidentemente in un punto dove non va. E lì come arrivo in FM? 9:10. Non è poco, no. Se in FM è un'altra cosa. Ah, sa cosa sì. Quando mi dice che è migliore, no Vanni? Ehi, allo grido, puoi squarciare, tranquillo, una telefonata. Ma la gente vuole modulare solo in AM, è uno da dove va. Non ribiarsi l'FM, anche se vaglia più bene. Avanti a tu. Capa, no, vabbè. Pio, lo sento, pio. Non so se io da lui arrivo. Adesso è in mezzo ai palazzi, è vicino a casa sua, è in mezzo ai palazzi, è per quello. Capa, evidentemente sono un po' più negativo. Sei in casa, va? Prova pure l'antenna a vedere, la cubasuglia a vedere. Che effetta? Non si arrivi da rimani, Vanni. Ma fino a finito, devi trovare. A settembre, cavolo. Vabbè, da Runi siamo arancione mi pare che siamo, no? Sempre da vagliare. Oh, io via. Ieri mani mi ha baciato tutta l'antenna da terra, capita, tutta ossidata era, mi sono stato stazionare a 5. No, non era piena, non è piena leva. Il rugoso della mulla, la gaffa, sotto era tutta ossidata. Infatti, la pieparannia, padre, l'ho tutto, era burro tutta canta. Ma lei, se sei duni, se ne scende pure frequenza. Mannino. Avanna, beh. Ma ti immagino che sei tu pura. Oh. Ebbene, Antonio. Ehi, ah, mia segnalone, che fai? Cosa? Che segnale? Segnalone rosso? Beh, 9:10, non è poco, no? Yes. E la, anche la radio ti ha cambiato, più bella. Non ha attaccato grido me. Ah, cappa hai messo. No, è sempre chi su, Voglia. È una bombetta, Caspita. Scombere in FM, sì? Tu sei per i 9:10 anche, sei a 9:15. Tu sei sul più, quasi più 30. E io come sto scendo in FM? Tu sei cuocomane, tu sei basso, 9:60. Ehi, allora ce l'hai vicino proprio. Natalino, 9, mi arriva Natalino qua. Ehi, cuocomane! Adesso come arrivo, Franco? Radio. Solleva Natali. Franco, come sto arrivando adesso? La radio non ce n'è quasi. Il segnale 9:10. Ah, la radio forse è bassa, guarda un po' così. Franco, la radio c'è adesso. Siamo in FM, siamo. Chi è che è la M? Luca! Ehi, ciao, va. Ci sentiamo. Ehi, torna un attimo, vado a controllare il sugo. Natali! Ehi, dimmi! Adesso la radio ce l'hai, adesso è buona, 9:10 radio 5. C'avevo il microfono basso, perché in AM me lo metto più basso, no? Ehi, va bene adesso. Ciao, Natali! Adesso già sei bello forte già. Canta te arrivi mia, tu. Siamo vicini. Passa in FM. Passate tutti in AM. Eccomi qua, in AM già ci sono. Ecco lì, ci sono anch'io. Ciao Giulio, buongiorno. Ciao Franco, ciao Antonio e ciao Vannino se mi stai ascoltando, se c'è ancora. E ciao Luca. No, Vannino ha lasciato con la macchina e è andato via. Ah, ok, perché io lo sentivo anche bene. Poi siete affrontati le FM e chiaramente ho ricominciato a sentire male, perché io questo baracchino non ce l'ha la FM, ha solo la banda laterale e la M e basta. Sì. Va bene, Antonio. Cappa. Ascolta, ti devo lasciare un attimino, 10 minuti. Ci sentiamo dopo, che lasciamo un attimino già a fare una cosa. Va bene, Antonio, ci sentiamo, dai, al limite se non ci sentiamo le prossime. Ciao Antonio. Luca. Luca mi sembra sia allontanato. Avanti giù. Ok, fra. Luca starà ascoltando la radio sicuramente, a quest'ora Luca starà ascoltando la radio. Va bene, dai. E allora la lontana l'hai sistemata, l'hai tirata su dopo di nuovo, fra. No, è in terra. Tirandola mi sono fatto male a un braccio e l'ho lasciata giù. L'ho fissata così e l'ho lasciata così. Però quando un giorno fa bello, adesso circa 2 o 3 giorni. La tiro tutta giù, la tiro, e siccome c'è lucido sotto la frangia della molla, c'è lucido e ha pulisco tutta l'antenna. Ah, e beh certo, l'alluminio col tempo si ossida, certo, quello è vero, e poi bisogna pulirlo ogni tanto. Sì, beh certo. E controllati allora, prima di buttarla giù, di togliere del tutto, controllati se è cortocircuitata, se no, visto considerato che la togli, ti aggiusti anche quello. Sì, sì, sì, no, è fatto già, non è cortocircuitata, l'ho già misurato dalla casa qua, e non mi fa nessun segnale, a meno che dall'aggancio del TL sull'antenna, la provo anche da lì. Eh beh, può dipendere anche lì, certo, non c'è da escluderlo. Vabbè, comunque, una volta che la tieni giù, ti fai una bella, ti fai un bel tagliando, insomma. Così te la riduci di nuovo a posto. Va bene, dai, già sono cose che si dovrebbero fare periodicamente, soprattutto dopo che è passato un inverno intero, chiaro che l'alluminio si ossida con l'acqua eccetera. Va bene, dai, comunque già te ne sai fare queste cose, non c'è problema. Sono cose basilari, quelle lì, non sono difficili. Infatti adesso vado, l'ho abbassata la molla, l'ho pulita un pochettino con questa carta vetrata fine, l'ho pulita, l'ho agganciata ed è zero stazionario. Sì, beh certo, se l'hai spostata l'hanno messa all'ossido, è chiaro, magari più in basso l'ossido non ce n'era, perché di solito l'ossido si forma fra i due contatti, cioè fra i due metalli, e cioè la fascetta è più lo stilo dell'antenna dove è ancorata, certamente è così, però già è fattibile il tutto, dai. E vabbè, quelli lì sono gli errori che fanno quelli che costruiscono le antenne, perché avrebbero dovuto mettere un qualcosa di un acciaio inossidabile lì, almeno in quella posizione dove serve appunto il contatto perfetto, se no col tempo è chiaro che si ossida. Invece essendo un acciaio inossidabile, suppongo che non succederebbe un fatto del genere, credo che sia così. Infatti. E poi sai cosa hanno fatto questi bastardi? Hai visto dove c'è l'aggancio per attaccare il tubo? Non ci sono quelle due gaffette di quei 4 bolloni per avvitare. Sì, quelli di sotto me li hanno messi tutti in acciaio, me li hanno messi. Quelli di sopra me li hanno messi tutti in ferro, me li hanno messi. E sono arrugginiti. Infatti già c'è il mio in acciaio, mi tolgo quelli e me li metto in acciaio e glieli metto. Caspita, la vedi che è un lavoro di merda che hanno fatto. Sono dei disgraziati, nel senso della parola. Pagliacci, buffoni, che non sono altro. Incredibile, caspita. Praticamente il cavallotto, tu stai parlando dei cavallotti, che uno in acciaio e uno in ferro. Che vergogna, ma quando mai una industria deve lavorare in quel modo lì? Cose assurde, veramente, guarda. Ui, ui, ui, vabbè. Purtroppo è così e cosa ci vuoi fare? La fabbrica alle volte fa degli errori grandissimi. Vabbè, dai, meno male che ce l'hai, te lo sostituisci adesso. Sì, c'ho i cavalletti che c'erano sulla manto, l'altra manto qua, la manto qua 5. E vanno bene, sono uguali, insomma. E ce l'ho tutti in acciaio quelli, ce li ho. Prendo da lì i bulloni e li metto in acciaio. Eh beh certo, infatti bulloni in acciaio, quindi già lo credo. Poi quello lì è il punto dove forza, perché con la ruggine col tempo si rompe anche a forza di oscillare per i colpi del vento che prende, no? Invece proprio quello deve essere proprio già in partenza fatto in acciaio inossidabile, come deve essere, come hanno fatto il primo, dovevano fare anche il secondo. Ma no, nella mia già sono tutti e due in acciaio, quindi. Però il resto si sa, la fascetta dove c'è il coso, la molla quella circolare, diciamo, no? Dove si regola per le stazionarie eccetera, quella fascetta è lo stesso, è di Lamierino, sarebbe voluta anche quella, è l'acciaio, sarebbe voluta il collare, no? Sul fatto del collare, in modo che non si crei l'ossido tra l'alluminio e il coso e il collare, invece no, alle volte si perdono così proprio in un nulla queste fabbriche così che costruiscono queste antenne. Ma comunque cosa vuoi, e cosa ne vuoi dire? Ma vabbè, pazienza, la seguo tutti io così lì. Quelle c'ho addirittura c'è la molla anche della 95, cioè nuova, che non l'ho mai buttata a quello, perché ho detto può servire, può capitare che serve, la molla non è che la trovi facilmente. Eh beh, non di certo. Se la molla è della stessa lunghezza va bene anche per la turbo, perché no? Ma quello no, non sarebbe un grosso problema se ci fosse qualche centimetro di differenza, però se è della stessa lunghezza tanto meglio, infatti non la deve buttare quella, perché la deve buttare? Quella può sempre servire, non si sa mai. E adesso che tu la tiri giù, perché non pensi a mettere anche un rinforzo alla base? Mi spiego bene, aspetta, fammi spiegare bene. Cioè, dove entra lo stilo centrale, no? Entra sul pezzo di quel quanto saranno, 10-15 cm di vetroresina, no? Siccome ha un amico qua di Sassari, si è rotto proprio lì, si è rotto il vetro visibile, gli si era rotto, e dunque è caduto giù lo stilo centrale. Fortunatamente non era in città questo amico. E allora io stavo pensando, se dentro, siccome è tutto vuoto, perché non cerchi di infilarci un tubo, un coso di legno, un arrotondo? Naturalmente facendo attenzione alla vite che c'è all'interno, perché c'è la vite che parte dalla bobina, quella bobina che c'è per i contatti, e così ti si rinforza anche lì. Non si sa mai come può andare, sai, con questo fatto del vetroresina così, non lo so sino a che punto può avere tanta forza. Perché sì, dentro non le prende qua, le prende, però non ha dato mai problemi, mai problemi mi ha dato di questo tipo. Se si può ti spezza, poi ci barreggia, prendiamo un'altra giù. Sì, ma non è quello il problema, uno se ne compra un'altra e via. Ma se cade per terra, se cade in strada su qualche macchina, il problema è quello. Devi pensare a quello. Adesso questo mi sembra, se ricordo bene, si era rotta a Tino in una cosa del genere, un problema del genere, era successo a Tino, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che tempo fa era successo a lui, poi lui se l'ha rimessa a posto magari, questo è d'accordo. Ecco perché ti stavo dicendo, visto considerato che la tiri giù, se ci metti un rinforzo anche all'interno, visto che si può fare benissimo, si può fare. E così sei sempre più tranquillo, non perché si rompe l'antenna, ma se cade in strada su qualche macchina, insomma, sicuramente una marcatura gliela fa, eh. E non c'è proprio quel problema, sono tutto all'interno, se cade in terrazza e rimane lì. Ecco, sono ritornato. Sei alto, sta tutto giù. Sì, e beh, allora non c'è questo problema. Non ce l'hai proprio questo problema. Ciao Antonio, avanti. Capo, ma io sono sceso, di punti sono sceso. Io mi sono antenna tipo Stellar, o qualcosa del genere, sai di chi è? Tipo Stellar? E l'antenna sarà... Dai, dove ha i punti? In che posizione? In che zona? Sarà quella di Walter, non lo so. Perché c'è un'antenna del genere? Dalla 27 non ce l'ha. Perché tempo fa a lui gli aveva fatto un disastro quella specie di uragano che era arrivato a creare punti, e dunque ha dovuto sistemarsi tutto di nuovo, e avrà cambiato, non lo so. Proprio in una casa singola. No, non è dove c'è Walter. È più su, Più su? È dove più su? Boh. No, non mi risulta. Non mi risulta tu. Boh, che io sappia qua no. Non ce ne sono, c'è la mia, ma io non sono con la stella, io sono con la Game Master. E poi se c'è qualcun altro che l'ha montata da poco non te lo so dire. Scappa, all'altezza lì di coso e di... a Napoli, non mi ricordo la via adesso, è più giù del supermercato. Però la via non me la ricordo adesso. Il supermercato quale? Ce ne sono 5 qua supermercati in questa zona. Se non mi dici qual è il supermercato, sarà via Pasella forse? Sì, qualcosa del genere. Sto scendo dopo la chiesa, dopo la chiesa più giù. Non l'ho mai vista. Va bene, avanti, avanti qua. Mi sa che anche gli altri, oltre a te Walter, lì, di antenne, io non ho mai visto lì alle punte. Beh, negli anni passati già c'erano, ma adesso non c'è più nessuno, ormai tutti quanti hanno dismesso. Forse c'è quella di Maurizio ancora, che si dovrebbe vedere anche dalla strada della sulla 131, visto e considerato che lui è praticamente è sulla 131, se vogliamo. Ci sarà anche quella, ma non è una stella, credo che abbia un arringo, credo, non me lo ricordo. Ma anche lui è entrato, se no, 5 volte e non di più, e poi non si è fatto più sentire. E adesso sono qualche annetto senza sentirlo. Non lo so, poi ce n'erano altri, ma erano tutte antenne che ormai non venivano più utilizzate, più usate. C'era quella di Marco su 3, Giuseppe Marco su 3, che purtroppo è morto da un po'. Anche lui ce l'aveva sempre l'antenna, ma il baracchino non lo stava più usando. Poi chi c'era? E c'era qualche altro anche, però non mi risulta che ci sia nessun altro alle fuori di me, alle punte io ho fra. Però è quello che hai detto, magari hanno lasciato l'antenna lì. Boh, sarà così. Vabbè, cioè, naturalmente c'è sempre Walter, è ovvio, ma Walter entra una volta ogni tanto qua a salutare e questo ci fa anche piacere, però lui praticamente fa attività in altre bande, in altre frequenze, no? Qui entra ogni tanto così. Va bene, dai, comunque, chiediamo a Campa, abbassa tu. Campa, non ho mai fatto un raffronto. Quanto mi arriverebbe lui qua? Sicuramente forte. Che Walter? Walter deve arrivare a 4 giri, non di precetta della radio. 4 giri di tavolino completo con la radio ci fa fare, ma pure così. Caspita, Walter ti arriva, non a te che sei a due passi, se vogliamo, tra là dove sei tu agli punti, ma anche in lontananza, se vuole, ti fa fare 4 giri nel tavolino dove c'è la radio e gira il daulino gli da buro, no, non la radio, no, il daulino gli da buro. Va bene, dai, avanti fra. Ma se c'è bestesso, va bene. Sì, ah, vedi, è un gioco che fa soltanto, ma io la soltanto non ce l'ho. Poi alle stesse condizioni bisogna vedere che gira di più. Ma è cosa di genere tu, che non si può fare un confronto, ma scherzando stai. Ma tu hai idea di cosa a Walter, tu non hai idea. Epita, guarda che forse in tutta la Sardegna non c'è nessuno che ha un'attrezzatura come lui. Sono più che convinto, a parte il fatto che è collezionista, che ha centinaia di baracchini, di radio, di ogni genere. Poi non parliamo di antenne, capita. Tralicci, antenne di ogni genere, sia in campagna che a casa. Ma puoi scherzare, cosa vuoi confrontare con Walter, devo confrontare. Dai, rapidi fra, dai, Antu, dai, lascia perdere. è come mettere una zanzara, un elefante, la stessa cosa. Vabbè. Assolutamente, altro. Cappa. No, sto dicendo, avendo la stessa roba, non sto facendo, logicamente io non ne ho, non posso confrontarle. Però avendo la stessa roba, avendo il lignarone grande, che si può giocare? Con Walter non puoi mai giocare, mai. Break. Avanti il break. Buongiorno. Salve a tutti, volevo sapere, Giulio, se mi senti? Mi senti Giulio? Sì, ti sento anche bene, non c'è problema, va benissimo così. Tanto, ma non è che faccia a ballinare la siccome gli avvatti, ma cosa ci intendi? Dai, non ne parliamo nemmeno per cortesia di queste cose. Ma intendi del tipo di ogni genere, tu lascia perdere, dai. Avanti fra, questa ci tu a fare venire avanti l'amico che è appena entrato. Capo, io faccio entrare l'amico, tu mi devi allontanare. Ci sentiamo. Avanti l'amico che ha bussato. Ciao Bruno. Ciao Giulio, ciao l'altro amico. Sono in macchina, era solo per sapere come mi sentivate, sono vicino a Cremona. Io ti sento benissimo, sentiamo 7-8 oscillante quando muovi. Io ti sento benissimo, Bruno. Adesso ti mando Antonio, vediamo se ti senti lui. Antonio, l'hai sentito a Bruno che è in macchina verso Plattamona? Qua arriva forte, arriva. Sicuramente non sei proprio a Plattamona. Scappa. Passi da 9.20 a 9 a 9.15, cioè, perché c'è il QCB. Stai viaggiando. Però sei forte, E sono oltre l'Arena del Sole, verso la fattoria. E ho che arrivi forte, sei oltre 9. Anche qui arrivi forte, Bruno. Ok, sono in macchina, un po' che non mettevo questa parecchio in macchina. Visto che da casa non c'è storia, non riesco a uscire. Vabbè, continuate voi. Riprendi Giulio, ciao. Ciao Bruno, fatti sentire la sera, siamo sempre qua, su questo canale. Per cui se hai voglia ci fa piacere dialogare anche con te, non c'è problema. Ciao Natalino, avanti. Ciao Giù. Tutto bene Natalino? Comunque arrivi da 5 a 8 qua, 5, 7, 8 modulati, oscillante, arrivi bene. Magari stai scendendo lì verso Pratamona. Ah, mi sentite a me da Cagliari? Sì, a te ti sentiamo anche da Iglesias, da Carbunia, tutti e tre paesi, dappertutto, anzi dalla metropolitana. Ti sentiamo, quando sei sulla letterina, ti sentiamo anche da lì. Vedi che arrivo anche da Cagliari, buonasera, buongiorno a tutti, buonasera, saluto gli amici che sono in ruota, dai, California da questa. Ma te ne immagini questo California, cazzo, parla da Cagliari, io al massimo arrivo alla Landriga e lui gatta da Cagliari, boh. Ma ve la detti una rigurata? Un attimo che devo mollare, ci sentiamo. Ciao Giulio, ciao a tutti, dai, ci ascoltiamo. Più tardi. Ciao, volete giù. Ok, ciao, ci sentiamo le prossime, dai. Magari più tardi o stasera anche se coincide. Bene. Ciao Franco California, avanti, saluta a Franco da Sorso, così che sta andando via, vai. Ciao Franco, buona giornata e ce la riascolta le prossime. Vabbè, saluto a te Giulio, Natalino e poi non so che altro ci sia in ruota. Salutati tutti al 100% da parte mia. Rilancio la microfonia, vai Natalì. Ciao Franco di Sorso, e c'era anche Bruno qua in macchina. Ciao Bruno, forse non mi ha riconosciuto poco fa, comunque qua stavi arrivando bene. Ciao Fra, ci sentiamo alle prossimine. Cappa, comunque qua adesso sei Santiago 6 Radio 5, io ti sento sempre. E tu per salutare a Bruno. E tu? Ehi Cappa, già sono qua già. Ti stavo dicendo che Bruno mi arriva, Santiago 6 Radio 5, io lo sento bene. come senti lì quella zona? Ciao, ciao, no, ma io già ti sento la sera, fregatene che quando sei a casa con la boomerang già ti sento né più né meno come ti sento adesso, per cui non c'è problema. Avanti Franco per salutare a Bruno. Ciao Bruno, buona giornata e ce la riascolto alle prossime. Attenzione canale 10. Avanti! Ciao Claudio, bene, come va? Papa, avanti canale 10. Chi è che risponde al microfono? Date conosci, ragazzi. Oh, mi conosci, va bene. Buongiorno a tutti e buon sabato, dammi un controllo tu. Capa, Santiago 910 e Radio 5, non sei con qualche antennino? No, con l'antenna grande, più di questo non si può fare. Se mi sentite va bene, se no mi occupo che le dute se lo piglia il culo. Ok? Avanti più lontano, chi è? Forse sono io, forse sono io, no. C'è Bruno anche vicino a Battavola, se l'hai ascoltato poc'anzi, non lo so, Cla. Ciao Cla. Sì, su a questo smitto mi sta arrivando Santiago 9 qua a me. La radio è sempre la solita, non c'è problema. Poi c'è Franco California anche lui ci può dare un bel controllo e così vedremo un po' la situazione come sta funzionando. Ma suppongo bene, perché io ci sento molto bene. Avanti, è ancora qua. Io non sento nessuno, No, ti è spostato, sì. Ha detto che non senti nessuno. A me mi senti, Claudio? Claudio, mi senti? Sì, sì, che ti sento. Santiago 9, Radio 5. Già ti sentiamo tutti, noi ti sentiamo tutti quanti. No, perché abbiamo denunciato, magari qualcuno forse si è spostato. No, non so cosa dirti. C'è chi c'è anche. C'è Natalino, dunque facciamo l'appello. Ci sono io, c'è Natalino, c'è la Bruno verso Platamona, non so se riprende. Poi c'era Franco California e poi chi c'era? Al momento non mi sembra nessun altro, se ricordo bene. Vai per chi vuoi, Cla, vai. Va bene, dai, era solo una prova per vedere se mi sentivate. Più di questo non posso fare perché spazio da fare baracche non ne ho. Ok, giusto per fare due chiacchiere. Mi sentite? Va bene così. Buongiorno a tutti e buon sabato. Avanti Antonio, ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao ciao. Rapporto di segnale dalle tue parti. Segnale 4, Radio 5, Claudio, Assoso. Idem con le patate, Santiago 5, Radio 5, sì, Franco. Antonio, sei 9-5, Santiago 9 più 5, Radio 5. Ah, va bene, c'era anche Natalino, c'era. Ok, più per giù siamo lì, dai. Va benissimo, va, Claudio, no, non c'è problema, già ti intendimmo. Ciao Claudio, buongiorno, 9-10 tuo rapporto di segnale qua da me. Cazzo fra, ma non sia casa tua? Cappa di positivo. 9, quasi 9 più 20, sì, segnale più alto di tutti. Ok, ok, ok, dai, c'ho anche a Franco di Sorso, Natalino, buongiorno a tutti, comunque solo una prova perché ho piazzato l'antenna e sto facendo le prove, per il momento va bene così, dai, vi saluto, grazie di tutto, avanti Giulio. Ok, va benissimo, va bene Santiago 9, stai arrivando, la radio è sempre quella solita tua, no? Non è cambiata niente, per niente, sempre a bomba, per cui va benissimo. Sì, va, vabbè, Franco già l'hai sentito, Franco da Sorso, che poc'anzi si era allontanato, ma adesso ha ripreso e ti ha dato anche un controllino. Va benissimo, dai. Vediamo se c'è Bruno, che è un pochino più lontano. Bruno, ci sei ancora? Giulio, non l'ho ripreso, dai, sono entrato solo per dare un controllo a Claudio, mi stavo ascoltando, sta facendo cosa. Ok, d'accordo, Fra, dai. D'accordo, dai. Fatti sentire stasera, così magari ci sarà anche Claudio e facciamo un quattro chiacchiere. Oggi è festa del lavoro e bisogna andare avanti in allegria. Avanti Natalì. si scappa, io mi sposto che devo cucinare qualcosa. Ci sentiamo alle prossime, salutoni a tutti, da. D'accordo, Natali, come vuoi. Va bene, tu devi pensare ai fornelli adesso, no? Hai già compreso. un vicino brutto anche quello, un vicino brutto è, che tu batto di stare sempre mangiando, uia. Va bene, dai, avanti a tu, avanti. Così è. Bisogna pure cucinare, che ne so. E così è. Quasi mezzogiorno, tra un po' incomincio pure io, incomincio, va. E fai bene, anche tu fai bene, mezzogiorno meno 8 minuti sono ancora presto, dopo io di quei problemi non ne ho, per me c'è gente, ci sono altre persone qui a casa che ci pensano, e cioè mia moglie, cugina, per cui, e anche perché io non sapevo cucinare niente, non da nulla tutto, proprio zero completo. E allora qua, che tantena, beh dai butta, hai battuto me, dai, sono contento, così ci possiamo risentire subito, dai, non c'è problema. Claudio, non riprende, siamo rimasti allora io e tu, e basta, perché Natalino si è allontanato, si allontana per cucinare. Franco sta lavorando e dunque non può riprendere. Claudio si è assentato evidentemente, o anche lui è indaffarato, forse starà completando il lavoro che ha fatto, e siamo rimasti tu ed io solamente, Antu, vai. Ah, Franco Califugni anche c'è. Franco, riprendi. Franco. Pure Franco si è fuggito, riprendi a tu. Cappa, comunque arriva bene, cavolo. Arriva benissimo, Claudio. Io lo sento bene. Ah, perché forse avete qualche dubbio? Non lo so io. Certo che arriva bene, come sempre. Non mi risulta di averlo sentito mai uscire male, la verità, non mi risulta. In tutti questi anni non mi ammetto blu più, anzi. Sono più che sicuro che non è mai successo. Vabbè, dai. Così è. Naturalmente casa nuova, segnale nuovo, questo è ovvio, ma è normale, no? Ci mancherebbe. Ma in tutto e per tutto, sia in registrazione che in trasmissione. È normale, Antu, cosa deve fare? E così è, basta. Cappa. Cosa è successo? Adesso perché funziona molto bene questa Ringo. Perché stavo pensando di prendermi come quella che c'ha Franco, la Venom, che è molto buona come antenna, cazzo una bestia, esce forte. Ah, com'è l'antenna di Franco California? Vabbè, è buona, sì. Sicuramente migliore della bomba, cosa è quella che hai tu, o cosa è Ringo, cosa è sicuramente è superiore. Non ci sono dubbi, se no te la compri come quella che ha Marco, Marco Condor, va bene, quelle sono antenne che vanno bene lo stesso, non sono costose e vanno benissimo lo stesso, Antu. Scegli una delle due e va bene. Sì, no, ma quella Venom a me mi piace, va bene. Adesso perché, no, ma questa, di questo modello qua, Giulio, non mi posso lamentare, cioè sono contentissimo, funziona che una meraviglia. Sì, ma va bene che quella, certo, per cui, meglio per tu, se te la vuoi cambiare, cambiatela, ma... Comunque io non ne vedo la ragione perché te la vuoi cambiare, è la verità. Avessi considerato che quella va bene. Cosa arriva? La collezione delle antenne arriva. Se poi è un altro ospizio è un altro discorso. Della compareggia e basta, te la piazzi. Però ma non è che devi prendere l'antenna perché stai uscendo male. No, tutt'altro, stai uscendo abbastanza bene. Mai sono uscito male con questa antenna. C'è già, ci sarà già 5-6 mesi, anche di più, perché prima c'era un'altra montata. Sì, quella come si chiama, come marca di antenna, cos'è? Ringo, cos'è? Lem, la Ringo Lem. Ah, la Ringo Lem, ho capito, sì. Va bene, va bene. E come cosa, com'è? Come mezz'onda, o cinque ottavi, com'è? Non è una cinque ottavi, è l'altra più bassa della cinque ottavi, come si chiama? La mezz'onda, mezz'onda è. Ehi, perché poi c'è l'altra, la quell'altra più piccola che... c'è la... com'è? Come funziona, Giulio? Allora, c'è la mezz'onda, un'onda, no, è la cicottavi, così è, sarà un'onda questa, non me lo ricordo adesso. Andiamo, andiamo, cazzo! Ciao Luca, sì, no, si inizia da un quarto d'onda, si inizia, quella è la meno performante, si parte un quarto d'onda, mezz'onda, cinque ottavi e tre quarti d'onda, allora ci vuole già due, comunque la quella più usata è sempre la cinque ottavi. Così è, quella la seconda, capito? La mezz'onda, dai, che è lunga, poi te lo dico subito, quanto è lunga? 5 metri, se 5 metri è mezz'onda, se 7 metri è 5 ottavi, se 2 metri e 75, 3 metri è un quarto d'onda, si vede anche da quello, dalla lunghezza fisica dello stilo centrale. 5 metri, Appunto, allora mezz'onda, sei 5 metri e mezz'onda. Ciao Luca, avanti. Ascoltando che stai le canzoni su Radio Nova, Luca. Ciao Giulio. No, negativo, no, sto spento qua. Domani è Radio Venere. Ok, vabbè. Andare Luca. Ma dimmi una cosa, ma sta piovendo per caso? Perché io sono qua, non ho nemmeno guardato per strada se sta piovendo o meno, perché c'è un po' di oscurità. No, non sta piovendo, c'è un po' di venticello, va. Pensare che ieri erano 26 gradi, oggi pucci. Lo so, è chiaro, se c'è questo grigione sicuramente è abbassata la temperatura, però non credo che sia così. Così è brutto, dai, già migliora senz'altro. Allora tu, compreso hai 5 metri, poi può essere 5 metri e 20, come può essere 4,90, è ovvio, no? Ma quando sei a livello di 5 metri e mezz'onda, tu, quando sei a livello di 7 metri, se è 90, se è 50, 7 metri, allora siamo a 5 ottavi, capito? Sì, ho capito. Comunque non mi posso lamentare, ho segnali che certa gente con la mantova non li sente nemmeno, dipende pure dalla zona, da come è, cioè non mi posso lamentare, veramente non mi posso lamentare. Non dicevo, guarda che ti spiego subito una cosa, l'antenna mezz'onda, secondo dove è piazzata, in quale zona si trova, addirittura funziona meglio della 5 ottavi, sappi questo, se tu mi dirai, ma come mai, se la 5 ottavi è più performante? Sì, però non è detto che funziona meglio della mezz'onda, Potrebbe capitare, succedere, che si trovi in una zona dove la mezz'onda rende di più di una 5 ottavi, e perché no? E lo sappiamo benissimo questo particolare qua. Poi si sa, la 5 ottavi nasce per essere più performante, però non è detto che, come ti sto dicendo, secondo dove tu abiti, per dire, io dico tu per dire qualsiasi altra persona, a secondo della posizione geografica funziona meglio la mezz'onda che la 5 ottavi, e questo è scontato, te lo posso garantire. A volte manco di nabizi, cioè se te li metti a confronto tante volte qualcuno l'ha fatto in passato, non te ne accorgi nemmeno che sta utilizzando quella. E infatti, adesso noi prendiamo il caso dell'antennina che ha Gianni lo profeta. Chi è che può dire che lui ha una boomerang? Nessuno lo può dire, dal momento che esce come esce. Come minimo la gente lo può giudicare che ha una mezz'onda, invece no, in realtà va un quarto d'onda e è una boomerang, solo che ha la posizione della casa che è altissima, la zona è liberissima e per cui ha delle prestazioni di trasmissione e anche di avvicinazione eccezionali. Sono tante le situazioni, possono essere tante. Vediamo un po' Luca se vuole riprendere. Luca? Sì, sono qua, le prese a preparare il pranzo, là. Oggi un po' di sugo buono e poi stasera faccio la pizza, no? Leggera però questa volta, mozzarella, funghi e coso e prosciutto, sono la carico troppo, è un casino. E cosa vuoi fare? Io abbiamo mangiato il kebab, no, adesso sarò un altro po' senza mangiarne e niente, e poi riposino, cosa vuoi fare? La vita è questa. E appunto, adesso oggi siamo ancora colore Campari, invece lunedì saremo colore Aranciata, se che ti puoi immaginare. E stanno decidendo gli altri per noi, no? Allora il mezzo sugo, metti un pezzo di salsiccione o dei salamini, che c'è un bel buono lo sugo. A me mi piace così, quando è controllato da quelle cose lì, perché il sugo così esce molto più buono. Andame Luca, che tu si sia mangiato. Avanti, Antu. Aspetta Antu, no, giù, ho messo la pancetta affumicata, poi ci ho messo un po' di origano, poi un pizzico di coso, di levano l'acido, l'acidità, non l'acido, di zucchero e poi un pizzichino di sale. Uno con questo zucchero. Lucino. Già è buona che così, già l'ugrino è buona, certamente sì. E poi ammettati una cosa Luca, che tutto quanto lo che piazza a bocca, lo godi d'occa, questo è un detto sassarese da sempre. Avanti a tu. Niente zucchero io nel sugo, quando lo faccio io non devi uscire l'acido, assolutamente no, ma manco per sogno. E beh, quello dipende dall'apparato che usi o tu. O cosa lo fai? All'antica tu, l'estratto? No, l'estratto è Antonella, cioè è bottiglia Antonella, però olio di oliva buono. Ultimamente sto prendendo quello Kerti, che è il migliore secondo me, è il migliore che c'è in circolazione, lo paghi però non viene. Beh, sicuramente sì, comunque l'olio buono è anche quello San Giuliano, costa più di tutti, però è buono, 15 euro all'incirca una bottiglia da un litro, più o meno così, poi se uno mi dà uso da 4 euro al litro è logico che hai quello che hai, però è così, andrà bene, anche noi usiamo quasi sempre i pelati Antonella o Antu, ma comunque anche il Casar è buono, anche quello, dai, anche quelli sono buoni i pelati. Andrà bene, avanti Luca. Non sono meglio i cappelloni di Antonella. Antonella e cappelloni. No, io l'ho detto che usa i pelati Antonella, non sono meglio i cappelloni Antonella. Ah beh, non è possibile, va bene, sempre tu segni, fai battuti, aggiunteso me, un caritto, così è lui. Antonella o Casar, sono la stessa azienda, sono, poi ne fanno anche altri, le fanno. Azienda, sono quasi la stessa cosa alla fine. In effetti non è che ci sia poi tanta differenza, comunque lui principalmente quasi sempre Antonella, poi se non c'è nel supermercato dove vai, perché è capitato diverse volte che erano finite le Antonella, allora vediamo casa e va bene lo stesso. Dai, buona roba a te, la batta asciutta. E poi quando mi fa mi dà ragione. Se basta, mi sta avete rubiato o Luca? Sempre a Serramanna arrivati, nemmeno. Luca è parito. Vabbè, che ne so, mezzogiorno e 7 minuti. Mezzogiorno e 7 minuti, vabbè, dai. Dai, tu, ci sentiamo, dai. Ci sentiamo stasera. Adesso stacco. è così, me ne vado al computer, vediamo un po' cosa c'è, leggiamo il giornale, cosa è successo alle mani, se qualcuno ha ammazzato la moglie, come ogni poco tempo si legge, e vediamo un po'. Ciao Antonio, ci sentiamo stasera, vai. Ascolto Filarino, poi chiudo. Ciao Luca, alla prossima stasera, dai, riprenda tu. Capa, sono Tony Giulio, sono Tony Luca, io vado a cucinare. Ciao, ciao. Ok, ciao. Andiamo, andiamo, cacca, cacca.